Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E ce lo ricordiamo ogni sabato, naturalmente. Per esempio, voi sapete, fino a qualche giorno fa, il mito dell'eterna giovinezza è sempre stato umano, no? Da che tempo e tempo, in realtà, si insiste più ultimamente con il lifting, con la chirurgia estetica, però diciamo è sempre stata una cosa legata alla condizione umana. In realtà adesso l'elisir di eterna giovinezza è un obiettivo anche delle mele. Una mela che è stata selezionata in Australia da ricercatori australiani. In questi giorni dovrebbe essere immessa sul mercato tra un anno e pensate che può durare, bella, rossa, turgida, così tutta tesa, questa mela un po' di mesi, così, sempre croccante, sempre uguale, come quando l'avete presa tale quale praticamente. E dicono no, non è un OGM, in realtà è stata selezionata attraverso selezioni accuratissime, è venuto fuori insomma questo frutto che resiste naturalmente ai parassiti. Quindi stanno cercando un partner internazionale per metterla sul mercato. Ha un nome direi non così accattivante per una mela che ha queste straordinarie qualità, si chiama RS103-130, sembra quasi una malattia, insomma comunque contenti loro. E allora immergiamoci come sempre il sabato nei tantissimi fatti che si sono succeduti durante la settimana. Io vi chiedo sempre di dirmi qual è la vostra opinione su qualsiasi notizia voi scegliate, quella che vi ha colpito di più. Il numero verde a vostra disposizione è sempre 800 24 00 24. E che cosa, quale ingrediente manca a questo punto? Ma l'ospite di oggi. Che è, signore e signori, Antonio Caprarica. Benvenuto Antonio. Buon pomeriggio, bentrovati. Antonio Caprarica, chi non ha in mente la sua faccia così viva, così simpatica, così arguta di Antonio, che è giornalista, scrittore, è stato per anni corrispondente per la RAI da varie parti del mondo, in particolare Londra e Parigi. Londra, so che tu l'ami moltissimo. Ci sei tornato, infatti. E poi direttore di Radio 1 e dei giornali Radio RAI. Ha scritto diversi libri Antonio Caprarica, l'ultimo si intitola I Granduchi di Soldonia, che così di primo acchito uno pensa dove sta sto paese Soldonia, poi in realtà leggi il sottotitolo, il libro pubblicato da Spelling & Kupfer, che è Eccessi e follie dei miliardari globali che se la ridono della crisi, beati loro, mi verrebbe da aggiungere, questa è una mia postilla però. Loro se la possono ridere veramente, perché il calcolo che è stato fatto statistico, diciamo, della sofferenza dei grandi ricchi della crisi dice che quel migliaio, un po' meno, di miliardari in dollari che vivono allegramente sulla faccia del nostro pianeta a causa della crisi hanno mediamente perso, sono passati dai 4 miliardi di dollari a testa di ricchezza media. Non riesco a fare il calcolo neanche mentale. È difficile, secondo me noi gente comune non ce la facciamo, no. Ma comunque loro sono passati da 4 miliardi di dollari a testa di ricchezza media a 3 miliardi di dollari a testa. Una crisi eccezionale. Ma è una crisi terribile, secondo me gli unici che possono piangere, per questo magari sono i parenti stretti che devono rinunciare a qualche anello di diamante in più, qualche cosa del genere, magari devono rinunciare non ai Panfili però, perché ad esempio Abramovic in piena crisi ha confermato, sapete che Abramovic è uno dei più ricchi tra i granduchi di Soldonia, ha confermato l'ordinazione del suo nuovo Panfilo, il quarto. Ah, meno male, perché eravamo preoccupati, sì. Sì, questo è quello più lungo di tutti, è la gara, insomma, a chi ha la cosa più grande, più grossa, più lunga, che è molto maschile, sì. È 167 metri e 60 centimetri, una volta in mezzo un campo di calcio. Chi è, cos'è Soldonia? Beh, in realtà Soldonia esiste, io ho inventato solo il nome del paese, è un paese che al tempo stesso è materiale e fisico, perché non è segnato da confini sulle carte geografiche, ma i suoi confini sono tracciati dal livello del conto in banca. Siete cittadini di Soldonia, e te lo auguro sinceramente, Roberta, se disponete in un'altra vita almeno $1 milione in asset finanziari. Mi viene da pensare, Antonio, stavo ripensando al Panfilo, mi aveva impressionato le lunghezze, eccetera. Tra poco ne possono mettere uno in mezzo allo stretto di Messina, congiunge senza bisogno di grandi opere, no? Questa sarebbe una soluzione. soluzione. Vero, una soluzione ottima. Quello potrebbe pensarsi seriamente, potrebbe forse aiutarci a risparmiare quei 5-6 miliardi per il ponte sullo stretto da utilizzare per finire magari l'autostrada Reggio Salerno, ma chissà, che ne dici? La Pedemontana al nord, o il famoso passante di Venezia. C'è una lista lunghissima, possiamo, sì. Se qualcuno ha suggerimenti. Intanto, prima di buttarci a capofitto nelle notizie della settimana, Antonio Caprarica, ti va di dirmi, secondo te, che cos'è che conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Ce l'hai in mente un qualcosa? Ma guarda, devo dire così, prima chito, direi che ecco, mia moglie sostiene ad esempio che non ci sono più le mezze stagioni perché a Roma non ci sono i saldi di primavera e d'autunno. Effettivamente, io invece sono stato tra i precursori, se ora che ci penso, diciamo, più che ad accorgermi dell'inesistenza, delle precursori dell'abolizione delle mezze stagioni, ho deciso che non esistevano più quando a 13 anni mi ribellai all'ordine di mamma di mettere la maglietta della salute all'arrivo dell'autunno. Decisi che non c'era bisogno e dunque annichilai l'autunno passando direttamente dall'estate all'inverno. Un antesignano proprio, quindi eri avanti già da piccolo. Antonio, allora adesso tra poco cominciamo a sentire le telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Quali sono i vostri commenti sui fatti della settimana? Intanto un commento, come al solito, lo sentiamo anche da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. E qui da Marte naturalmente si procede come sempre l'osservazione terrestre con grande, costante interesse per le variegate vicende umane, anche se è chiaro, insomma, essendoci questa distanza siderale, no, tra i due pianeti, tra Marte e la Terra, da quassù non è che le cose si capiscano sempre benissimo, bisogna dire, c'è proprio questa distanza per cui le cose sono un po' sfumate. Per esempio, come fa uno solo perché mangia poco e ha magari in tasca 20 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina a rompersi due vertebre? Solo perché mangia poco e poi oltre a perire nel giro di una settimana. Allora lo vedete che le diete non sono tanto convenienti, mi pare che l'abbia detto anche un ministro che probabilmente assume un quantitativo sufficiente di calorie. Comunque, a volte bisogna dire, sulla Terra non vengono proprio rispettati i diritti umani. E ve ne porto immediatamente un esempio. In Gran Bretagna, una donna, dopo essere stata arrestata per ben 3 volte per le denunce dei vicini, ha fatto ricorso in tribunale proprio in nome dei diritti umani per rivendicare, attenzione, il suo diritto all'urlo libero durante le performance sessuali col marito. È un mio diritto, ha più volte affermato con tutte le sue forze in tribunale. I vicini, come vi dicevo, l'hanno più volte denunciata, poiché sconvolti dalle urla provenienti dalla casa della donna, che hanno definito tipiche da omicidio, come insomma se si stesse consumando un efferato delitto. E i giudici di questo tribunale, dove lei ha fatto ricorso, dopo aver ascoltato una registrazione audio degna, assicurano, di un film dell'orrore che si protraeva ininterrottamente per un quarto d'ora, ma le evoluzioni erotiche duravano in media 3 ore, a detta dei vicini, hanno sentenziato i giudici che urlare a decibel insopportabili durante l'amplesso non è un diritto, specie quando può far pensare fortemente a un omicidio. Insomma, da Marte, a onor del vero, devo dire, non si è sentito nulla, ma diciamo che in questa sentenza avrà giocato un certo ruolo, forse anche un po' l'invidia di vicini e giudici. Il diritto di esistenza degli extraterrestri, invece, è salvaguardato. Le domande sulla presenza di vita fuori dalla Terra, hanno detto in questi giorni dalla Pontificia Accademia delle Scienze, le domande di vita al di fuori della Terra sono legittime e meritano quindi seria considerazione. E dunque, con questa autorevole ulteriore legittimazione alla mia consistenza esistenziale, vi do appuntamento al prossimo contatto extraplanetario. E rieccoci insieme. Allora, prima di cominciare a sentire i primi ascoltatori che stanno chiamando e di consultare Antonio Caprarica, cioè grandissima esperienza naturalmente sui fatti del mondo, vi ricordo, faccio questa sintesi estrema come al solito di alcune delle notizie, parte infinitesimale, delle notizie della settimana. Naturalmente l'anniversario epocale, ventennale, no, della caduta del muro di Berlino. Poi, per quanto riguarda l'Italia, un'altra caduta purtroppo tragica, invece la frana ad Ischia con questa ragazzina quindicenne che è morta, diversi feriti, una ventina. Giustizia è il tema caldissimo, continua a essere in Italia. con questo disegno di legge sul processo breve, grande polemica politica, Casini stesso, l'UDC, che ha detto il processo breve è una porcheria, e Alfano dice ma insomma cominciamo a vedere un po' come si può correggere. Poi sempre dal PDL una proposta per reintrodurre l'immunità parlamentare che era stata abolita nel 93. Poi in Rai c'è stata questa rivolta del sindacato del TG1 contro il direttore Minzolini per l'editoriale che ha fatto nei giorni scorsi sulla giustizia. C'è il caso Campania, quel candidato alla presidenza della regione Nicola Cosentino, che sarebbe indagato per concorso esterno in associazione camorristica. Il processo Mills, è stata depositata la sentenza, le motivazioni della sentenza, cioè fu corrotto dopo la testimonianza pro premier. Il caso Cucchi, lo sapete, del 31enne Stefano Cucchi, che è morto in carcere nel giro di 7 giorni, era stato arrestato appunto per avere in piccole dosi di spaccio di hashish e di cocaina. E questo caso, insomma, che per fortuna, grazie alla famiglia, sta andando avanti e si spera di avere chiarezza e giustizia nel minor tempo possibile. Dall'estero un annuncio ieri importante sui quelli ritenuti 5 colpevoli dell'11 settembre, che da Guantanamo verranno trasferiti a New York e ci sarà un processo civile. La finanziaria, intanto sembra che l'Italia sia fuori dalla recessione per la prima volta dopo 15 mesi, risale il PIL, famoso PIL, prodotto interno lordo, la finanziaria che è stata approvata ma con la cancellazione della Banca del Sud e dei fondi che ammontavano 80 milioni di euro previsti per l'assunzione di giovani ricercatori, quindi da investire nella ricerca. Francesco Rutelli, che ha battezzato il suo nuovo movimento, si chiama Alleanza per l'Italia, per aggregare il centro. Veronica Lario, che porta in tribunale la causa di separazione con il presidente del Consiglio Berlusconi. E poi via libera in Francia, ecco, questa è una notizia così un po' controcorrente. Via libera in Francia l'adozione per una coppia omosessuale di donne, una sentenza tra l'altro che va anche contro la legge francese, che dice sì, va bene l'adozione per i single ma non per le coppie dello stesso sesso. Invece il tribunale di Besançon ha deciso che invece queste due donne meritano, per le loro referenze, per le caratteristiche insomma della loro unione, di poter adottare un bambino dopo 10 anni di battaglie. In Germania, la Germania è in lutto per il suicidio del portiere della nazionale Robert Henke. E poi la NASA ha scoperto che c'è acqua sulla Luna. Antonio Caprarica, di fronte a questa scoperta cosa pensi tu? Qualcuno ha detto chi se ne frega, però non so se... No, io sono sempre molto affascinato da ciò che può accadere oltre la nostra modesta e ridotta biosfera. E quindi sì, dopo tante chiacchiere sull'inutile pianeta, che ci siamo andati a fare, eccetera, vuoi vedere invece che una ragione di speranza arriva proprio dalle rocce, dalla sabbia della Luna? Perché ci trasferiamo lì, dici? Chiaro, non è che possiamo vedere insomma molto roseo sul futuro della nostra bellissima Terra. Quindi forse cominciare a pensare qualche alternativa che non toccherà né me presumibilmente, ma insomma i nostri remoti pronipoti potrebbero trovare sulla Luna qualche momentanea stazione di transito verso altri pianeti, altri lidi, chissà. No, sono tra quelli perennemente affascinati, mentre sono molto disturbato dalla gente che mi chiede ma pensa davvero che la Terra finirà nel 2012? E vorrei rispondere a questa questione dicendo ma ci chiediamo mai se la stupidità magari finirà nel 2012? No, come diceva Einstein, non ha fine. Rispondo così, insomma il futuro mi pare molto incerto e mi pare dovere dell'uomo quello di cercare nuovi confini. Ecco, i nuovi magari altri pianeti da distruggere, ma comunque allora, Antonio, cominciamo a sentire al numero verde 800 24 0024 le telefonate degli ascoltatori. C'è Federico da Pisa. Sì, buongiorno. Buongiorno Federico. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, per la radio ovviamente, perché l'ascoltiamo tutti in famiglia, quindi tutti riuniti come si fa davanti alla televisione, invece davanti alla radio. Ormai siamo praticamente 3 figli, siamo tutti in 3 case diverse, però tutti ogni volta ascoltano uniti dalla radio. Sì, ovviamente ho capito, grazie Federico. Allora, qual è la tua notizia della settimana? Allora, Federico, praticamente avevo letto l'altro giorno mi pare ieri o ieri l'altro sul Corriere della Sera, però poi non ho visto telegiornali perché la televisione ormai la lascio perdere. C'è stato il Consiglio dei Ministri ultimamente in cui diceva praticamente che Berlusconi quasi si è addormentato perché praticamente non gli interessava i problemi che c'erano, e c'è stata anche una lite tra Tremonti e Brunetta e tra Tremonti e la Presti Giacomo. Beh, di liti appunto... ce ne sono state un po' questa settimana. In realtà credo Berlusconi si sia un attimo assopito, come succede un po' a tutti, anche, soprattutto quando non sono in verdissima età. La notizia diceva, ovviamente, avendoci tutti i problemi Berlusconi, sinceramente non gli importava più di tanto del Consiglio dei Ministri, appunto. Ma cosa, Federico, ma volevi sapere cosa stava sognando? Qual era la tua... No, la mia cosa è sapere da Caprarica, appunto, cosa ne pensava di questo, cioè dei riti tra i ministri, sul fatto che Tremonti stia tagliando praticamente tutti i finanziamenti e tutte queste cose qui, e più che altro il fatto che ci sia anche parecchia crisi nella maggioranza e, diciamo, venga un attimino taciuta ogni tanto, appunto, da queste notizie che poi non vengono riportate di questo del Consiglio dei Ministri. Va bene, Federico, allora facciamo che Antonio Caprarica avrà modo di raccogliere adesso le sue riflessioni su questa cosa. Intanto, prima di sentire ascoltatori e ascoltatrici ancora che continuano a chiamare al numero verde 800 24 00 24, Antonio, ti chiedeva Francesco da Pisa che opinione avevi dei litigi anche in questa settimana, per esempio tra ministri, e non so se ti interessava l'assopimento, diceva. Ho sentito Francesco, beh, in realtà sull'assopimento di Berlusconi, come è noto, i giornali hanno avanzato anche ipotesi più maliziose, raccontano di un Berlusconi che passa la notte tra avvocati e consulenti finanziari, dovendosi un po' districare tra le proprie disavventure giudiziarie e la nuova battaglia a cui lo impegna invece la moglie in via di divorzio, che significa anche un ridisegno dell'impero berlusconiano, che certo, è, diciamo, una faccenda molto importante, trattandosi di una grande realtà industriale di questo paese. E quanto ai litigi, noi siamo storicamente un popolo di trasformisti faziosi, come dice Cordero, e trasformisti faziosi che non perdono nessuna occasione di litigare. Io trovo estremamente fastidioso il fatto che questi litigi e i resoconti di questi litigi arrivino in continuazione sui giornali, alimentando la sensazione di un paese che è sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Le sceneggiate che si raccontano, appunto, delle liti tra i ministri, tra Brunetta e Tremonti, tra Tremonti e Presti Giacomo, anche con espressioni poco consone a signori e signore, non depongono bene, evidentemente, sulla immagine italiana, ma sulla sostanza oltre che sull'immagine, perché danno l'impressione che non ci sia veramente un disegno coerente di riforma di cui questo paese ha bisogno, e probabilmente forniscono un'immagine anche peggiore di quella che è la realtà. Non credo, sinceramente, Francesco diceva, forse sono l'indizio di una maggioranza che magari sull'orlo della dissoluzione o molto divisa. No, io non credo che questo accada, anche perché non vedo sinceramente alcuna alternativa al momento a questa maggioranza. Penso che il vizio italico delle liti da ballatoio, le definiva una volta il ministro Formica tanti anni fa, beh, questa tradizione sarebbe bene abbandonarla per dare un'immagine un po' più seria del paese. Carlo D'Arezzo. Eccolo qua. Eccoci. Buon pomeriggio a tutti. Un flash rapidissimo, sì, sui 20 anni della caduta dell'abbattimento del muro. Sì. Allora, tante feste, fuochi artificiali, eccetera, pranzi, insomma, nessuno, dicasi nessuno, lo sapete, ha ricordato gli oltre 200 morti ammazzati dai faux poste sul muro. Per i giovani che non sanno, perché non erano nati. No, come in servizi, vari reportage, cioè, in questi giorni. Pochissimo, guarda, sui morti, scusami se ti contraddico. No, figurati. In ogni caso, volevo dire, per i giovani, vorrei ricordare che i faux poste, poliziotti del popolo, va bene, di Walter Ulbricht, prima, perdon per la pronuncia, e poi di Erich Honecker, hanno ammazzato oltre 200 tedeschi dell'est che tentavano di sorpassare il muro per venire in Occidente. Erich Honecker, che morì nel suo letto in Cile, non quando c'era Pinochet, dopo, Erich Honecker voleva addirittura per ogni morto ammazzato dai cecchini Fopos un rapporto sul suo tavolo. Questo è il primo flash. Ora, se mi consenti, ne farei un altro rapidissimo. Ti consento, sì, piuttosto sintetico. Sulla sentenza della Corte di Strasburgo, no, per il crocifisso. Allora, io vi faccio tantissimi auguri alla presidente di questa commissione, di questa Corte, Françoise Tulkens. Le auguro, alla signora, tanti soddisfacenti, intensissimi, prolungati orgasmi, talché quando va in commissione è più rilassata ed emetta delle sentenze meno stupide, meno cretine. Oh, scusa. Per appoggiare il crocifisso, sono un cattivo cristiano, però ho dipinto varie croci sulla mia auto. Carlo, no, è quello, uno può dipingere croci dove vuole, naturalmente, però non mettiamo sempre il piano che quando le donne fanno qualcosa si può essere d'accordo o non d'accordo, eccetera, che sia sempre sul piano sessuale, se sono soddisfatte o no. Non mi sembra che sugli uomini si facciano mai queste allusioni. Che dici, Carlo? Era un po' maschilista questa cosa, al di là poi del crocifisso, cosa separata. Se è maschilista, chiedo scusa a te e a tutte le altre donne. Grazie. Veramente, però credimi, io dico che è una sentenza veramente stupida. Io non do dello stupido alla signora e agli altri sei componenti della corte. Mi guarderei bene, no? Si critica l'oggetto, non le persone che hanno contribuito a porlo in essere. No, per carità, in certi casi anche, però insomma, diciamo, con argomentazioni magari differenti. Così era un mio pensiero, Carlo, ogni tanto lo esprimo. I pensieri sono sempre ben accetti, Roberto. Grazie. Un saluto particolare anche a vostro. Caprarica, grande giornalista, grande corrispondente, grande scrittore. Naturalmente. Grazie, Carlo. Ciao. Antonio, hai voglia di dire la tua? Intanto grazie a Carlo per questo saluto caloroso. Hai fatto bene a richiamarlo, perché ogni tanto noi maschietti, quando non siamo d'accordo con le decisioni di una donna, ci lasciamo andare, ma lui ha preso atto e ha chiesto scusa, ha dimostrato di essere una persona intelligente e misurata. Sono d'accordo con lui su questa sentenza del crocifisso, onestamente. Il crocifisso negli uffici pubblici del nostro paese non ha nulla a che vedere con una dichiarazione di fede religiosa o con un'appartenenza a una religione di Stato. È un simbolo, tra l'altro il crocifisso credo che sia per ogni essere vivente dotato di ragione un simbolo di libertà. Uomo o Dio è qualcuno che ha scelto di affrontare la prova estrema in coerenza con le proprie idee. Dunque è davvero un simbolo che travalica l'appartenenza di fede. Intervenire con una sentenza su questo tema, su un tema che è così intrecciato alle tradizioni, alla storia, ai sentimenti di un popolo, mi pare una cosa sinceramente una prova di un laicismo sciocco. Non sono sciocche le persone, perché anch'io voglio fare la distinzione tra l'errore e l'errante, come disse Giovanni XXIII III, insomma, ma è un errore pensare che la manifestazione della laicità debba inseguire la battaglia a simboli universali, simboli che tutti sono in grado di riconoscere per quello che valgono. Antonio, dimmi una cosa, parlava prima l'ascoltatore, anche Carlo, del ventennale, no, della caduta del muro di Berlino. Una cosa che mi ha piuttosto sorpresa, che forse avvicina anche gli altri paesi, almeno dell'Europa, all'Italia, nel modo di sentire, nelle tendenze, eccetera. Ho letto che le cerimonie dell'anniversario naturalmente sono andate in diretta sulla TV tedesca, anche la ZDF, seconda rete della TV pubblica, sono state seguite da un 16% della popolazione, mentre un 26% ha seguito un reality del contadino che cerca moglie. Questo è il titolo del... Come mai secondo te questa cosa? Forse si ha voglia di buttarsi... Vado dicendo per la verità da tanto tempo. Noi non facciamo altro che autoflagellarci su questa Italia innamorata dei reality, su questa Italia che segue il peggio in televisione. Badate, questo è un fenomeno mondiale. La televisione come fenomeno di comunicazione di massa ha prodotto, ahi noi, una tendenza verso il peggio, alla ricerca di un'audience sempre più larga, per cui alla fine alcuni spettacoli, un certo genere di varietà o di intrattenimento alla meglio su quella funzione educativa che la televisione dell'inizio ha svolto invece magnificamente. Non sono affatto sorpreso, onestamente, che perfino in un paese che festeggia la propria unificazione dopo decenni di tragedia, la gente preferisca vedere il contadino piuttosto che rallegrarsi per ciò che è accaduto 20 anni fa. È il cattivo rapporto con la memoria che noi popoli televisivi di questo nuovo millennio abbiamo stabilito. Noi italiani, fai questo esperimento, lo suggerisco nel libro che ho dedicato agli italiani, Roberta, chiedi ai ragazzini di 10 anni in Italia se sanno che cosa è Calatafimi, che cosa è successo a Calatafimi. Beh. Se sanno che da lì è partita l'unità nazionale di questo paese, da quella piccola battaglia in quel remoto centro della Sicilia. E lo stesso per i tedeschi di oggi, molti di loro probabilmente non sanno nemmeno, come ricordava l'ascoltatore, o non sanno nemmeno con precisione che le guardie di Ulbricht, di Ulbricht o di Honecker hanno ammazzato 200 e passa tedeschi, ma non sanno nemmeno precisamente che cosa è accaduto magari in quell'autunno dell'89. Se per questo anche Bush aveva le idee un po' confuse, Bush Junior, io nel libricino che è dedicato alle papere dei potenti riporto questa di Bush Junior, che dice: e nell'autunno dell'89 ci furono rivolte a Berlino Est e a Lipsia e caddero tutte le dittature comuniste in America Latina. Ecco, aveva delle difficoltà con la storia anche il presidente degli Stati Uniti. Parecchie, anche con la geografia. Ma adesso sentiamo Francesca da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24, un numero verde che potete chiamare per ritornare con le vostre opinioni libere sui fatti di questa settimana. Sentiamo quello di Francesca. Francesca. Buon pomeriggio Roberta, buon pomeriggio a tutti. A te, buon pomeriggio Francesca. Ecco, che cosa ti ha colpito? La mia notizia può sembrare magari superata, e invece no. Vorrei parlare di Alda Merini, che è morta la scorsa settimana, sì. Perché proprio questa settimana ho sentito così che vorrebbero intitolarle un ponte su Naviglio Grande. A Milano, e sì. Perché io seguo le radio, così ho sentito in diverse radio, dicevano che volevano intervistare anche dei residenti, no? Persone che l'avevano conosciuta. E parecchie persone dicevano: ma con tutti i problemi che abbiamo qua ai Navigli, il traffico, il rumore della notte, eccetera, si pensa a questa cosa. Ma io trovo una cosa che non ha senso mettere vicino il ponte dedicato ad Alda Merini con tutti i problemi dei Navigli, perché Alda Merini, secondo me, è stata una persona, questa poetessa, che ha fatto più di 10 anni di manicomio, 24 ricoveri da quel che ho sentito, e nonostante tutto ha finito la sua vita scrivendo ancora poesie. La poesia sopravvive a tutto. La bellezza contro l'inferno, dice Saviano. Sì. Francesca, sì. Ti ringrazio, e poi è sempre un po', non so se è una mania italiana questa o cosa, anche di considerare che certe cose siano in contrapposizione, si possono fare anche delle cose contemporaneamente, non è la stessa persona che se ne occupa proprio in concreto, quindi non vedo perché una cosa debba escludere l'altra. Comunque adesso ci fermiamo, questa piccola pausa, ritorniamo poi insieme a Antonio Caprarica e alle vostre telefonate, a cominciare da Giovanna da Roma, poi c'è Angelo da Milano. Il numero è sempre 800 24 00 24 per riflettere insieme sui fatti della settimana. Ritorno a sentire tra pochissimo le vostre notizie della settimana, ma devo dire, Antonio, fra le altre cose, visto che di notizie ce ne sono tante, gli ascoltatori ce ne hanno toccate diverse, che questa settimana gode di particolare fortuna il dialetto. Per esempio tu, mi pare che tu sia di Lecce originario. Sono leccese. Leccese. Come diresti benvenuti signore e signori su questo volo in leccese? Fammi pensare, perché ti devo confessare che io ho imparato il dialetto quando avevo già 15 anni, quindi sono un po' tardivo da questo punto di vista. Bene fascisti, veniti su questo, non sono sicuro, penso che devo chiedere l'aiuto di un traduttore. Vabbè, sai perché? Perché per esempio per quanto riguarda EasyJet, no? Sai, la compagnia aerea low cost inglese, ha deciso che da adesso, insomma, per far sentire gli italiani più a casa loro, nei voli italiani parleranno col dialetto della città da cui partono, no? Già per esempio si parla di quello napoletano, adesso anch'io la pronuncia: signore e signori, benvenuti a tutti quanti in coppa stu volo, è l'EasyJet. Oppure più lombardo: sciuri e sciure, benvenuti a bordo che vu che vulchi EasyJet. Sono piuttosto italiana, diciamo, questo volo, benvenuti su questo volo, ma insomma, ecco, è una cosa che fa ridere. Ho visto che anche Sanremo si comincerà dalla prossima edizione a cantare tranquillamente in dialetto. Era una richiesta che aveva fatto Bossi un po' di mesi fa e l'hanno accettata. Che dici? Che pensi? Ma penso che è uno di quei casi in cui ritorna l'interrogativo sulla data di scadenza della stupidità. Spero che nessuno si offenda. Io amo moltissimo la diversità italiana. Anche io, sì. Però adoro situazioni... la diversità italiana, che rende il nostro paese davvero diverso dal resto e dagli altri. Ma mentre sono dell'avviso, sai perché ho imparato il dialetto quando appunto avevo già 13-14 anni? Perché una delle insegnanti della mia scuola, ne avevo 13 anni, era l'ultimo anno di scuola media, era una signora che scriveva commedie in dialetto. E allora in quegli anni lontani si usava ancora a scuola fare, non so, un saggio di fine anno in cui c'era commedia, in cui c'era un po' di musica, eccetera, e scrisse questa commedia da far recitare a un paio dei suoi allievi. Io avevo un buon talento, attoriale, e mi chiese di recitarlo, ma dovevo imparare il dialetto. E studiando, imparando il dialetto, imparai tanti modi di dire, tradizioni, sensi, e anche sensi della convivenza della mia città, quindi non sono assolutamente contrario all'uso del dialetto e alla cura nei confronti del dialetto. Ciò che mi sembra una terribile stupidità è pretendere di frantumare la nostra unità linguistica eccezionale e straordinaria, perché se non altro si basa su alcuni capolavori letterari, nuovamente in tante sublingue regionali. Questa è una cosa che non ha senso, che non ha né capo né coda. Allora, andiamo di nuovo alle vostre telefonate, c'è Giovanna, poi c'è Attilio, poi c'è Marco. Cominciamo da Giovanna, da Roma. Sì, sì, eccomi qua, valsa la pena aspettare. Grazie della pazienza, Giovanna, sì. Buongiorno. Buongiorno a te. Volevo salutare il dottor Caprarica, semplicemente, ho telefonato solo per questo, se disturbo. Ah, era un saluto. Un attimo. Vabbè, ma tirala fuori una notizia di questa settimana, non c'è niente. No, non avevo niente da dire, volevo soltanto dire sì, che ci ha lasciato, non lo so, mi sembrava che non ci... che non fosse più con noi, perché un uomo come chi? Dottor Caprarica, è difficile trovare un uomo così intelligente, una persona così colta, educata, rispettosa verso gli altri, che la dice delle cose difficilissime con delle parole semplicissime. Benissimo. Sono uomini che veramente sono in estinzione. In estinzione, in estinzione come i dinosauri una volta. Grazie Giovanna, Antonio. Posso ringraziarla io di certo. Questa signora che mi vuole tanto bene, a cui ricambio questi sentimenti di affetto, diciamo, sono, questa cosa non è vanità, ma per noi che facciamo questo lavoro, sapere che ci sono delle persone che apprezzano i nostri sforzi di essere onesti, per bene, decenti, come si può dire in una sola parola, è veramente un conforto enorme. Quindi, signora, sono ancora qui, sono tra di voi, tra di noi, e ho avuto un momento di assenza dovuto anche a ragioni di salute personali, ma insomma sono ma stai sono bene, tornato, stai benissimo. Sono qui. Si sente la brillantezza di sempre di Antonio Caprarica. Credo la telefonata di Angelo sia caduta, allora adesso passerei a Attilio dalla provincia di Padova. Sì, buonasera. Buonasera Attilio. Buongiorno. Allora, è un po' cupo anche da te, sì. Prima cosa voglio dire che una delle lingue che io adoro parlare è il dialetto. Io parlo tre lingue straniere oltre all'italiano, e parlare il mio dialetto è una cosa per me molto... Ah, poi per i veneti in particolare, devo dire, si dice spesso del sud, ma anche i veneti amano molto esprimersi io amo in dialetto. Usare il dialetto perché è la lingua di mio nonno, della nonna, della famiglia. Una questione affettiva anche, ho sì. Ho una figlia che studia lingue e la mando dai nonni a imparare il dialetto, perché comunque lega le nostre terre. Mm. Quello che volevo dire sì, io era legato al discorso del crocifisso. Mm. Allora è ovvio che ogni civiltà, ogni cultura, ogni paese ha dei simboli suoi che li usa... Poi personalmente ogni persona come meglio crede. Io sono cristiano convinto, forse non sono cattolico, nel senso che credo in Cristo e nell'insegnamento che ha dato, non so quanto poi sia in grado di seguire le regole cattoliche. Mm. Però non è che possiamo adesso per qualcuno cominciare ad abbattere chiese, abbattere campanili, abbattere tutto quello che fa parte del nostro simbolismo anche culturale che abbiamo sviluppato in migliaia di anni di storia. Io ero a Parigi l'altra sera ed essere davanti alla cattedrale di Notre Dame, che è sicuramente un simbolo religioso, oltre che culturale e artistico, faceva accapponare la pelle vedere come l'uomo riesca attraverso la sua cultura a esprimersi. Il crocifisso fa parte della storia dell'Italia, tutto qua. Grazie Attilio, grazie, stavo pensando delle considerazioni. Attilio, ti ringrazio, c'è Marco da Bari adesso. Sì, mi sentite? Sì, chiarissimo, chiaro e forte Marco, prego. Allora, buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Grazie a te. Niente, io vorrei che si ponesse ancora una volta l'attenzione sul problema influenza A, che non solo nell'ultima settimana, ma diciamo nelle ultime settimane se ne è straparlato, ma secondo me in maniera un po' confusa, per il semplice fatto che nelle varie trasmissioni televisive, soprattutto, ma anche sui giornali, non ci sia stata l'opportunità di far parlare, far discutere soltanto gente competente in materia, ed è stata data la possibilità a persone che in definitiva fondamentalmente non sanno nulla né di vaccini né di virus, neanche per così dire di medicina, e questo ha creato tanta confusione. Io sono uno studente di medicina veterinaria e nonostante sia un po', diciamo così, addentrato nella materia e più o meno in via di esperienza, mi rendo conto che per una persona che non sa assolutamente niente di questo è abbastanza difficile comprendere, sentendo varie voci in dissonanza, in contrapposizione, in antitesi, e prendere delle decisioni definitive sulla vaccinazione propria, verso i propri figli, eccetera. Sì, Marco, effettivamente, insomma, l'abbiamo detto anche in altre puntate, ecco, sarebbe necessario intanto niente allarmismo, perché sembra che sia abbastanza chiaro, così si dice, che più o meno le morti, i decessi purtroppo dovuti all'influenza A sono inferiori a quella che è l'influenza stagionale normale. È chiaro che questa cosa, si parla di pandemia, di una cosa molto diffusa in giro per il mondo, e quindi un po' mette in stato, insomma, di preoccupazione. Però è vero che se dal Ministero, dalle fonti preposte, arrivassero delle informazioni un po' più chiare, coerenti, univoche, invece abbiamo sentito magari in un periodo, l'Italia non ne soffrirà più di tanto, poi l'Italia è più colpito, il paese più colpito d'Europa, poi no, l'Italia è uno dei paesi meno colpiti d'Europa. Insomma, ecco, un po' di chiarezza chiaramente metterebbe un po' gli animi più tranquilli. Allora, è caduta la telefonata anche in questo caso. Allora vi ricordo il numero verde per le telefonate: 800 24 00 24. Fra le notizie un po' alatere di questa settimana, per esempio, leggevo, Antonio Caprarica, di un ritorno di Piero Marrazzo in Rai nel 2010. L'ha detto il suo avvocato, dice è un suo diritto. Adesso senza riaprire tutto il caso Marrazzo, così, visto che si era un po', diciamo, al di là della sua vicenda, che secondo me andare con una persona che sia di un sesso dall'altro, cioè assolutamente niente di che, tutt'al più, ecco, come si diceva, il fatto di aver mentito, ma questo suo atteggiamento un po', diciamo, defilato, spaventato di fronte a questa cosa, e non si è preso semplicemente un po' il piglio di dire sì, ho fatto questa cosa, d'accordo, che c'è di male, poi sulla questione della cocaina altro non è ancora stato chiarito, altre cose devono essere chiarite, invece adesso un po' così come d'imperio dice no, dal 2010 torno in Rai, che sarà un suo diritto. Che abbia detto dal 2010 tornerai, non ne ho idea. Ho visto delle agenzie questa settimana. Ma credo che sia stato semplicemente rilevato che, come qualsiasi dipendente o lavoratore che viene eletto a un incarico elettivo di aspettativa, e a un certo punto, nel momento in cui cessa, ha diritto di ritornare al posto del lavoro, al suo posto di lavoro. Onestamente non so se Marrazzo vorrà riprendere il suo lavoro oppure no. Io trovo questa vicenda, ci sono due aspetti di questa vicenda: uno che è strettamente personale e familiare, su cui sarebbe bene che tutti noi che ci occupiamo di informazione facessimo un bellissimo salto indietro, uno pubblico, e di quello bisogna parlare in modo doveroso e ampio per capire se ci sono stati elementi che abbiano un profilo di illecità, di irregolarità, di illegittimità, se ci sono stati ricatti oppure no, e di questo si sta occupando la magistratura. Se Marrazzo dal punto di vista giudiziario emerge pulito, e poi ognuno può avere il giudizio che crede naturalmente sul suo comportamento, sulle persone che frequenta, chi vede e chi non vede, i suoi diritti come lavoratore non vengono scalfiti da questo giudizio più o meno morale, più o meno etico sul suo comportamento. Questa che sto dicendo è una banalità, ma è la semplice verità, le cose stanno così. Poi compete a Marrazzo decidere se la sente, se pensa che sia opportuno, che sia giusto. Insomma, lavorare in televisione significa anche proporre dei modelli alla gente che in qualche modo ti segue, con cui ha un rapporto, e certe volte certi comportamenti possono risultare estremamente ambigui e difficili. Sì, no, però io questa non è una decisione che poi toccherà a lui prendere a seconda della sua sensibilità. No, a me semplicemente così un po' sorprendeva il fatto che su quella vicenda si sia quasi un po' coperto la testa e nascosto, invece di dire sì, sono qui, vabbè, come sono andate le cose, sono andate così, io non ci vedo niente di male, a parte la questione del ricatto poi. E poi invece dire, appunto, da quanto riportavano le agenzie, voler risaltare fuori con tutto il suo protagonismo, la sua professionalità di giornalista, eccetera, ecco, semplicemente una questione psicologica, di atteggiamento così un po' in incoerente. C'è adesso il numero verde, mi pare, no, abbiamo un appuntamento, visto che qui a Milano piove, non so dalle vostre parti, forse vediamo se riusciamo ad avere un qualche motivo di consolazione. Carissimo colonnello Mario Giuliacci. Ciao Roberta. Caro colonnello. Ascoltatori, eccoci qua. Tutti sull'attenti a sentire che cosa ci propini, diciamo, per parte oggi, non so, la giornata cupa sia un po' diffusa o soltanto al nord o la nuvoletta su Milano, ma... Ma io vorrei regalare una giornata di sole a tutti, ma purtroppo non è così. Splende il sole su quasi tutto il meridione, un po' di nuvole sulla regione centrale, molte nuvole al nord e anche sulla Toscana, piogge che ci saranno e ci sono state sul Levante Ligure, sull'est Lombardia, Alpi, Laghi Lombardi, il Friuli. Ecco, questa situazione direi quasi congelata, nel senso che resterà tale quale per le prossime 48 ore. Anche domani saranno molte nuvole al nord, poche nuvole al centro, bello al sud. E ancora piogge, possibile, ma più che piogge io le definirei pioviggini, sul Levante Ligure, il Milanese, l'Alpi, Laghi Lombardi, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Alta Toscana. Quindi, come si vede, sì, un cieli grigi al nord, ma con pochi fenomeni. Comunque è sempre pure un cielo un po' malinconico. Ecco. Siamo in autunno, che bisogna fare? Insomma, è una mezza stagione l'autunno? Ci può stare, quindi ovvio che... Sono le giornate tipiche autunnali, quindi le dobbiamo mettere in conto. Le temperature sono miti, non fa certo caldo, ma nemmeno fa freddo, insomma, nemmeno anche al mattino si sono rialzate notevolmente su tutta l'Italia, e quindi... E prendiamo quel che viene, insomma. Grazie colonnello Giuliacci, buon tempo a te naturalmente. Grazie anche a te, condizioni meteorologiche. Una buona giornata. Grazie colonnello Giuliacci. E adesso ritorniamo ancora sulle vostre telefonate. C'è Gino o Dino da Latina? Pronto? Sì. Dino, sì. Sei tu Dino? Pronto? Sì, siamo qua. Signor Giordano, buonasera. Buonasera, buongiorno. Però ti prego... Io incomincio dagli anni 60, no. Quando avevo 17 anni e mezzo, sono andata a lavorare all'estero con le scarpe rotte e una valigia di cartone. Vuoi fare tutto questo racconto tu dagli anni 60? No. Io arrivo al processo breve. Ah sì, ecco, allora sarai breve. Sì. E incomincio di là, perché noi allora, negli anni 60, eravamo degli italiani che addirittura, dopo aver vissuto per tanti anni all'estero, litigavamo sulla nazionalità. Noi italiani e voi tedeschi. Sì. Adesso, dopo tanti anni, ritorno in Germania. E mi vergogno di essere rappresentata da un primo ministro che si fa le leggi ad hoc, perché dal 94 fino a oggi se ne ha fatto 18. Ora, signor Giordano, per carità, se io mi ascolto i giornalisti come Emilio Fede, che vengono pagati da lui, e posso ancora capirlo, ma quando io mi ascolto i vari Bruno Vespa che paghiamo tutti noi, e i minzolini che paghiamo noi, che mi fanno ancora da scudo, io non lo so, signor Giordano, se difendere l'italianità. Io addirittura mi vergogno di venire rappresentato da un primo ministro così. In altri paesi, come in Israele, il primo ministro si è dimesso, è andato avanti il giudice, perché non lo fa lui? Perché si fa di tutto per non difendersi dalle leggi che ha fatto lui? Dino, ti ringrazio, chiarissimo, più chiaro, diciamo, piuttosto veemente, Dino, arrabbiato. Antonio Caprarica, rispondere tu a Dino. Cara Roberta, vero? No, io ma se vuoi. Capisco i sentimenti. È chiaro che il nostro amico ascoltatore di prima ha delle idee molto chiare. Il guaio è che moltissimi altri italiani ed elettori come lui hanno delle idee altrettanto chiare, convinte che Berlusconi sia invece vittima di persecuzioni giudiziarie. Personalmente non sono naturalmente di questo avviso e sono convinto che il modo più semplice, questo lo dico senza nessun infingimento, secondo me il modo più semplice per Berlusconi di porre fine alle sue traversie giudiziarie sarebbe di seguire i processi e di sottoporsi al giudizio della magistratura ordinaria. È difficile sostenere che i 9.000 giudici italiani sono tutti comunisti o che la procura di Milano è un covo di comunisti, se non altro perché poi sono comunisti ai quali lo stesso Berlusconi nel 94 aveva proposto posti ministeriali nel suo primo governo, da Davigo alla giustizia, Di Pietro agli interni. Però naturalmente c'è un punto che mi preme sottolineare, che in ogni caso ci sono due livelli molto diversi di giudizio. Uno riguarda le vicende giudiziarie di Berlusconi. Berlusconi, come tutti i cittadini italiani sottoposti alla legge, farebbe benissimo ad affrontare i suoi processi a chiuderli in un modo o nell'altro. L'altro è la legittimazione politica che Berlusconi ha ricevuto dal corpo elettorale a governare. Questo è una esigenza che va garantita, secondo me, nella stessa misura in cui va garantita l'esigenza che Berlusconi si sottoponga ai processi come tutti. Probabilmente un sistema per assicurare che tutte e due queste esigenze vengano tenute in considerazione bisogna trovarlo. Insomma, io voglio ricordare che il Presidente, adesso non sto parlando di Lodo Alfano, non so se è quello lo strumento, non so che cosa bisogna fare, ma tutto sommato l'idea che un governo eletto debba governare, a meno che chi lo guida non si sia reso responsabile nell'esercizio delle sue funzioni di gravi irregolarità o crimini, ma non è questo il caso perché stiamo parlando di storie pregresse, probabilmente bisogna trovare un sistema che garantisca queste due esigenze. In Francia, dicevo, Chirac per 7 anni, anzi per 12 perché tanto è durata la sua presidenza, è rimasto immune dagli strali della magistratura. Antonio, quando ha lasciato l'ufficio, il procuratore, anzi il giudice istruttore, ha ritenuto che fosse opportuno rinviarlo al giudizio. Antonio, perdonami, siccome abbiamo pochi secondi di chiusura, è immancabile un appuntamento di ora con Valeria Della Valle, e tu tieniti 20 secondi poi per fare un commento di chiusura. Ma Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, grande, no? Grande capacità di sintesi, grande intelligenza, come sai fare. Chiedo il termine che mi salta in mente questa settimana: alleanza, a parte il partito nuovo creato da Rutelio, poi Obama che dice bisogna trovare nuove alleanze in Asia con Giappone o Cina, Fini che è tanto protagonista in questi giorni, ex alleanza nazionale, l'alleanza, il termine. Alleanza. 23 secondi. Sì. 3 secondi. Allora, beh, insomma, l'alleanza per la nuova creatura è appunto l'alleanza per l'Italia. Insomma, il termine alleanza è stato scelto bene per molti versi, perché a parte Alleanza Nazionale che hai ricordato, anche l'alleanza popolare UDEUR, forse un po' più dimenticata, ecco che il termine alleanza di grande tradizione finisce per evocare anche inconsapevolmente eventi, fatti, accordi positivi, anche se poi, se andiamo proprio a vedere, insomma, dalla grande alleanza alla santa alleanza, forse proprio cose santissime non erano. E nel nuovo significato, che è quello di unione, coalizione fra più persone, gruppi, partiti, per raggiungere scopi comuni, ecco che in fondo ha così una parvenza di sentimenti e di suggestioni tutte positive. Del resto anche c'è il significato religioso, no? La vecchia alleanza, certo, la nuova alleanza tra Dio e gli uomini. Concludo dicendo velocissimamente solo una cosa: c'è solo un elemento che rimane in dubbio a proposito della nuova creatura di Rutelli. Come si chiameranno gli aderenti appunto alla nuova formazione? Alleanzini. Ecco, ma siccome Rutelli è un creatore geniale di neologismi, lo aspettiamo da lui. Grazie Valeria Della Valle, ci saprà dire. Sono estremamente grata così per Valeria Della Valle, e poi ringrazio, alla parte tecnica c'è Paolo Corleoni, e poi le vostre telefonate roventi al telefono di Giorgio De Luca. E in chiusura, proprio 7 secondi, mi dicono Antonio Caprarica, un aforismo, un qualcosa, una battuta, una chiusura? Sì, la battuta è che vorrei, sogno una nuova alleanza tra italiani che metta da parte le tifoserie per salvare il paese dall'autodistruzione. Mi piace, grazie Antonio Caprarica. Da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.